Ecco la registrazione del boato provocato dalla caduta di un meteorite a Chelyabinsk, nella Russia centrale, a quasi 2000 km da Mosca. Registrazione affidata ai telefonini, alle telecamere di sorveglianza, ma soprattutto alle videocamere installate sulle automobili e imposte dalle assicurazioni in Russia. Erano le 9:20, le 4:20 in Italia. Nei video pubblicati su internet si vede distintamente una scia luminosa e una palla di fuoco che cade verso terra. Secondo gli astronomi russi, il bolide doveva pesare alcune tonnellate. Il meteorite è esploso in atmosfera e a causare i danni sono stati l'onda d'urto e i frammenti caduti a terra. Finestre rotte e molti feriti, alcuni gravi. La protezione civile ha inviato sul posto circa 20.000 uomini. Ad alcuni potrebbe venire in mente che la NASA aveva annunciato proprio per la giornata di oggi il passaggio di un asteroide ad una distanza, astronomicamente parlando, molto vicina alla Terra. Si tratta del DA14, scoperto nel febbraio 2012, 45 metri di diametro e una massa di 135.000 tonnellate. Ma sia chiaro, tra i due fatti non c'è alcun collegamento. Il DA14 passerà attorno alle 20:30 ora italiana, a circa 27.600 km dal nostro pianeta, una distanza inferiore a quella di molti satelliti. Stando però agli ultimi calcoli, non ci sono rischi di impatto. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.